e il settimo si riposò. Il riposo del guerriero, il rotocalco domenicale di Radio 24 che fa riposare il corpo, non la mente, e che fa giocare con il mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere in libri su libreriarizzoli.it. E questo è il primo indizio. Il riposo del guerriero, ogni domenica alle 10, con Stefano Gallarini. Su Radio 24. La passione si sente.